giorno fissato per le 12 a parlarmi di questo. Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio, per romper dei sponsali più avanzati di questo, ma sotto e con pretesto, ed egli a me colpe questo confronto, certi impegni, so io, basta, or convien la Susanna atterrir, convien con arte impuntigliar l'ari più fare il ponte, egli per vendicarsi prenderà il mio partito e Figaro così sia mio marito. Bene, io tutto farò, senza riserve tutto a me palesate. Avrei pur gusto di dare in moglie la mia serva antica, a chi mi fece un figlio.